Domande sul paragrafo 4, la leggenda del mostro di Loch Ness. Dall'articolo si capisce che la leggenda del mostro di Loch Ness è passata attraverso diverse fasi. Quale fatto caratterizza ciascuna fase? Attenzione, per ogni fase della leggenda scegli solo un fatto che lo caratterizza. Ci sono anche dei fatti intrusi. Partiamo. Fase 1. Quale tra i seguenti fatti dà origine alla leggenda? Viene pubblicata una foto del mostro che ha spaventato il dottor Wilson? Ci sono pitture rupestri che rappresentano un animale sconosciuto e mostruoso? I Pitti hanno voluto spaventare i romani con le loro pitture rupestri? Il mostro di Loch Ness emerge di tanto in tanto dal lago dove vive? Continuano le segnalazioni di avvistamenti di mostri nel lago. Fase 2. Quale fra questi fatti invece è utile per l'affermarsi della leggenda? Viene pubblicata una foto del mostro che ha spaventato il dottor Wilson. Ci sono pitture rupestri che rappresentano un animale sconosciuto e mostruoso. I Pitti hanno voluto spaventare i romani con le loro pitture rupestri. Il mostro di Loch Ness emerge di tanto in tanto dal lago dove vive. Continuano le segnalazioni di avvistamenti di mostri nel lago. Fase 3. Quale fra questi fatti serve per confermare la sopravvivenza della leggenda fino ai nostri giorni? Viene pubblicata una foto del mostro che ha spaventato il dottor Wilson. Ci sono pitture rupestri che rappresentano un animale sconosciuto e mostruoso. I Pitti hanno voluto spaventare i romani con le loro pitture rupestri. Il mostro di Loch Ness emerge di tanto in tanto dal lago dove vive. Continuano le segnalazioni di avvistamenti di mostri nel lago. Nel paragrafo sono elencate alcune argomentazioni contro la reale esistenza del mostro di Loch Ness. Quali aspetti del mostro o del lago vengono utilizzate per costruire queste argomentazioni? Per ognuna delle affermazioni che farò, dimmi se è qualcosa che è utilizzato per costruire un'argomentazione sull'esistenza del mostro di Loch Ness o seppure non è utilizzato. La necessità per il mostro di uscire dall'acqua per respirare. La disponibilità o meno di reperti degli antenati del mostro. La forma della testa del mostro. Il rapporto tra le dimensioni del mostro e quelle del lago. La variazione di colore dell'acqua del lago. La temperatura delle acque del lago. La prossima domanda riguarda l'articolo nel suo insieme, formato dai paragrafi che hai già letto. Che cosa accomuna gli animali mostri di cui parla questo articolo? Le loro caratteristiche straordinarie e impressionanti? Le loro grandi dimensioni e la loro imprevedibile aggressività? La loro pericolosità per l'uomo e per gli altri animali, la loro capacità di nascondersi per non farsi vedere.